Restiamo in tema in un certo senso. Non so quanti di voi si apprestino a festeggiare venerdì prossimo quella ricorrenza di San Valentino che ci si annuncia per ora soprattutto attraverso il fiorire nelle vetrine dei più singolari gadget a forma di cuore. Non so se condividete l'austero giudizio di chi la considera una festa tutto sommato censurabile, promossa com'è soprattutto dai fabbricanti di cioccolatini e dai bottegai specializzati in articoli da regalo, o se appartenete al gruppo più liberale di quanti pensano che, visti i tempi che corrono, festeggiare non fa mai male e che tra tutte le cose che meritano d'essere festeggiate l'amore in fondo non è la meno importante. In realtà, quali che siano i motivi e le vicende che hanno portato a fare di un oscuro vescovo e martire dell'altissimo medioevo il patrono degli innamorati, la festa esiste, ha una sua dignità ed è anche piuttosto antica. Personalmente, anche se non ho fatto ricerche specifiche, ho sospetto che la si possa far rientrare nell'ampio quadro dei riti di vegetazione, in fondo la metà di febbraio è il periodo in cui si allenta almeno provvisoriamente la morsa dell'inverno, quando sugli alberi più coraggiosi appaiono le prime gemme, e che almeno a giudicare dalla canzonetta un po' osé, per questo dicevo che restiamo in argomento, a giudicare dalla canzonetta un po' osé che Shakespeare fa cantare alla povera Ofelia nel quarto atto dell'Amleto, in origine, più che con l'innamoramento e il fidanzamento, la festa avesse a che fare con l'iniziazione sessuale. Si tratterebbe dunque dell'ennesimo esempio di festa tradizionale, più o meno cristianizzata nel Medioevo e brutalmente sottoposta alla logica commerciale dai nostri contemporanei. Niente di diverso in ultima analisi dal Natale. E se noi continuiamo, al di là delle implicazioni religiose, a festeggiare il Natale, senza lasciarci impressionare dalla superfetazione consumistica che lo accompagna, non si vede perché dovremmo trascurare una festa che ci ricorda un'esperienza che ogni individuo ragionevole dovrebbe avere immensamente cara. Certo però che le cose non sono così semplici. Una cosa è festeggiare l'amore, che in qualsiasi forma lo si esprima resta qualcosa di personale, e un'altra è celebrare il fidanzamento, che è a tutti gli effetti un fatto sociale e come tale con l'amore non è necessariamente collegato, e con il sesso almeno nella società patriarcale ancor meno. Tanto è vero che su quella di solito si preferisce sorvolare tacitamente, e le celebrazioni di San Valentino sono aperte in pratica a tutte le coppie, il che può comportare qualche complicazione, perché una coppia per il cui essere tale l'amore ha ceduto definitivamente il passo alle obbligazioni e alle convenienze sociali, non vivrà il proprio stato con quello slancio liberatorio che solo dà un senso alla decisione di festeggiare. E quando da festeggiare non c'è proprio nulla, gli obblighi scanditi dal calendario possono scatenare anche reazioni inconsulte. Non per niente un gruppo di scrittori con cui ho talvolta a che fare quest'anno ha scelto il tema di San Valentino per un'antologia di racconti in cui la festa degli innamorati o presunti tali è vista come l'occasione ideale per i più raccapriccianti delitti. Si intitola Innamorati da morire, e chi tra gli ascoltatori segue anche la mia rubrica di recensioni gialle ne avrà già sentito parlare. Gli scrittori di gialli sono tutti un po' cinici, ma non sono certamente gli unici a guardare alla ricorrenza di venerdì prossimo con uno sguardo che è tutto fuorché sentimentale. Andate a controllare, per fare un caso, le dichiarazioni raccolte in merito da un collaboratore delle pagine milanesi del Corriere in una breve inchiesta tra gli studenti delle scuole medie e superiori della nostra città, ivi apparsa martedì scorso. Nemmeno la mia amica Danila Comastri Montanari, che ha raccontato di come due coniugi mal assortiti festeggino la ricorrenza cercando di farsi fuori a vicenda, può essere considerata più spietata di quel Lorenzo, 17enne del liceo Parini, che osserva come a San Valentino si rivelano, dice così, tutte le ragazze meno desiderate, dice sempre così, perché pensano che il giorno degli innamorati è che tutto sia più semplice, e poi commenta gelidamente: si sbagliano. Forse se fosse il giorno dei morti potrei pensare anche a loro. Per non dire di quella Sara, 19 anni del Tito Livio, che ritenendo che l'essenza della festa consista a poche storie nei regali che si ricevono, si aspetta qualsiasi cosa, dai baci perugina ai diamanti, e speriamo che crescendo impari a moderare le sue pretese. O di Francesca, 17 anni anche lei, scuola non specificata, che nella medesima prospettiva dichiara: certo che mi aspetto qualcosa, altrimenti sono botte. giustificando in qualche modo il punto di vista di Marco, stessa età, che spiega come il trucco per evitare inutili esborsi sia quello di lasciarla il giorno prima e telefonarle il giorno dopo. E se anche per questi bravi ragazzi il problema in definitiva è quello che già turbava Romeo di trovare la tipa giusta, e non si può dire che l'amore per loro sia quella forza irresistibile di fronte alla quale cade qualsiasi altra considerazione. Il Lorenzo di cui sopra, per esempio, la tipa giusta l'aveva trovata a San Paolo in Brasile, ma la prima bolletta telefonica è finito tutto. Fa un po' impressione a prima lettura. Cogliere delle espressioni tanto poco romantiche sul labbro degli esponenti delle più giovani generazioni, e si può solo sperare che la responsabilità sia tutta del giornalista, che pigro come tutti i suoi colleghi è andato a cercarsi gli intervistati nei soliti due o tre licei bene dove allignano i rampolli di una classe che senza dubbi alla libertà dei sentimenti preferisce la lira o l'euro oggi, come fa per tradizione antichissima la borghesia milanese. Forse gli istituti di periferia sono tutt'altra cosa e vi si aggivano creature un po' più delicate, più sensibili alle pene delle non desiderate, meno avide di cioccolatini e diamanti, meno attente ai costi della bolletta del telefono. O forse, naturalmente, no. Forse quei poveretti rispecchiano fedelmente il quadro valori medio dei loro coetanei, e non c'è che da doversene per loro, naturalmente, ma nella consapevolezza che la loro età per fortuna hanno davanti a sé abbastanza tempo per cambiare idea. In fondo quelle Sare, quelle Francesche, quei Marchi, quei Franceschi sono soltanto all'inizio del loro apprendistato sentimentale, non hanno ancora avuto modo di liberarsi dai precetti inculcatogli dai loro maggiori. Quasi tutti i giovani cominciano la propria carriera ideologica come insopportabili conformisti, e del conformismo devono pazientemente liberarsi anche sul piano sentimentale. È sempre andata così ed evidentemente questa generazione non fa eccezione, a tutto disdoro di quella che l'ha preceduta, che poi la nostra, che qualche responsabilità in merito non può non averla. E che fatica, ragazzi, tra noi e voi, che fatica.